Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Hola, ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutte e tutti. Noi incominciamo raccontandovi dei tanti video di animali che circolano in rete. Ci chiediamo se possano cambiare il modo di lavorare di chi si occupa di etologia, insomma l'etologia si fa social. E poi vi parleremo di un libro dedicato a un fenomeno e a un nuovo modo di guardare questo fenomeno, che è lo stupro di massa. E infine andiamo in Giordania per conoscere a che punto è Sesame. Va bene, via! Anni e anni di lavoro sul campo, sia in natura che in cattività. Mi riferisco ad un grosso studio che ha impegnato per 10 anni Elisabetta Palagi, etologa del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, che è qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera, salve a tutti. Uno studio molto lungo proprio per osservare e studiare il comportamento dei lemuri sia nel Madagascar che nello zoo di Pistoia. Ecco, partiamo dai lemuri, Palagi. Nell'immane flusso di immagini che ci arriva, di video su Facebook, insomma sui social, ormai vediamo lemuri che scrivono a macchina sotto dettatura di un istrice. Allora, la domanda che le facciamo è così introdotta in modo divertente, ma è sostanziale. È la seguente: nella storia della scienza, l'avvento di certi strumenti ha aperto a voi che fate ricerca dei pezzi della vostra testa di ricercatori e ricercatrici che non potevate utilizzare. Con il microscopio avete incominciato a vedere delle cose piccolissime e vi sono venute un sacco di idee. Allora, noi vediamo fare degli animali delle cose assolutamente sorprendenti, e questo è il prodotto dal fatto che milioni di persone fanno video ad animali ogni giorno. E allora, vi dice qualcosa a voi etologi? Uno degli ultimi che ho visto è un orso che passeggia lungo un laghetto, vede un corvo malmesso in acqua, così con nonchalance, insomma, lo prende delicatamente per l'ala, lo porta su e poi va via. Insomma, Elisabetta Palagi, con tutti i gattini e non solo che vediamo su Facebook, l'etologia può diventare social? Dunque, allora, mi è piaciuto molto l'esempio che ha fatto Federico all'inizio, no? Quando vediamo che un lemure scrive a macchina e sotto dettatura di un istrice. Questa è una situazione chiaramente paradossale, sì, no? Sì, certo. Che però riflette anche tante situazioni paradossali che possiamo trovare in rete. Quindi, diciamo, chiaramente quella di Federico è un'esagerazione, no? Per ovvi motivi, però purtroppo di esagerazioni in rete ce ne sono tante. Quindi, la prima domanda che secondo me un buon etologo, e io in primis, cioè mi sono sempre posta quando vedo questi post di video, di fotografie, che mettono anche in relazione specie diverse, eccetera, mi chiedo l'attendibilità del dato. Perché non ci dimentichiamo che l'etologia è una scienza giovane, ma è una scienza e come tale deve essere portata avanti. Non è che non abbiamo mai pensato ad utilizzare video su YouTube, oltre a quelli che compaiono su Facebook, postati da tanti amici, perché poi chiaramente sanno che ti occupi di animali, quindi te le mandano in continuazione. Assolutamente può essere un bacino estremamente importante, in fatto di dati in grande quantità. Sì. Il problema è la qualità. E mi spiego. Posso vedere, ad esempio, una scimmia che dà il biberon a un cane. Facciamo questo esempio. Come faccio a sapere che la scimmia non è stata addestrata? Come faccio a sapere che il cane non è stato addestrato per fare quella cosa? Come faccio a sapere che tutto ciò che viene postato su Facebook è già stato filtrato da altri? Ci sono dei giochi bellissimi tra un corvo e un gattino. Sì, okay. L'ho visto. Magari è stato postato solo il gioco ed è poi non è stato postato il momento in cui magari il gatto si mangia il corvo. Come dire, oppure tutte quelle sessioni che magari in realtà non sono sessioni di gioco ma sono aggressioni vere e proprie. Quindi il discorso è questo: tutto ciò che appare sui social è già filtrato da chi ce li vuole mettere. Questo è già un problema per noi, perché quando noi andiamo a campionare, campioniamo tutto e tutta l'attività che compare fatta dall'animale una maggiore quantità di tempo possibile. Questo che cosa ci permette? Ci permette di andare a standardizzare l'osservazione e andare a, come dire, descrivere in modo realistico ciò che un animale fa. Ma la domanda è, con tutte quelle attenzioni che le ha rilevato, però è vero che potrebbe aprirsi suggerimenti di ricerca per quello che... Ah no, questo sicuramente è vero, e in parte è già anche stato fatto su alcuni comportamenti particolari. Quali, per esempio? Ad esempio, è uscito un lavoro recentemente, alla fine dell'anno passato, dove hanno utilizzato, in cui i ricercatori hanno utilizzato la durata dello sbadiglio di diverse specie animali, in particolare di primati, e quindi hanno utilizzato una grande quantità di sbadigli effettuati da diverse specie di primati e non solo primati, e hanno messo in relazione la durata degli sbadigli di ogni singolo evento di sbadiglio, calcolandone chiaramente la media a livello di specie, a livello specifico, con la dimensione del cervello pesata sulle dimensioni corporee, ed è venuta fuori una correlazione positiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, ad esempio, nei primati e nell'uomo, nelle grandi scimmie rispetto ai lemuri, normalmente uno sbadiglio ha una durata maggiore. Questo chiaramente è stato messo in relazione con l'importanza che ha lo studio dello sbadiglio come veicolo di empatia, come veicolo di sincronizzazione per il gruppo, eccetera. Quindi ci sono alcuni aspetti, secondo me, in cui questo materiale, per cui questo materiale è estremamente importante. Un'altra cosa che avevamo pensato di fare, che probabilmente magari faremo, è quello di andare a indagare e a prendere tante sessioni di gioco, in particolare interspecifico, tra i bambini e i cani, perché ci sono tantissimi video appunto postati di bambini in età prescolare, dove il linguaggio corporeo, più che il linguaggio articolato e parlato, la fa da padrone nell'interazione. È importante, esatto, e quindi il bambino si basa sul gesto e il cane legge il gesto del bambino, che possono effettivamente essere veramente veramente utili per indagare questo aspetto. Sì, insomma, cioè bisogna combinare. Chiaramente cos'è che ci manca? Ci manca ad esempio la storia del cane, ci manca il fatto se il cane è stato preso in un canile, se l'età del cane, il sesso del cane, perché chiaramente sono tutte informazioni, certo, alle quali noi non possiamo accedere. Certo, certo, certo. Sì, è una suggestione interessante, ma esatto, bisogna sono lavorare. Degli spunti ottimi di riflessione, oltre al fatto che poi chiaramente uno vede un video e gli viene un'idea, e allora uno niente toglie che poi quell'idea può essere sviluppata applicando le metodologie e le procedure classiche etologiche, no? Cioè, ok, vedo una cosa particolarmente interessante, mi viene un'idea e poi vado a raccogliere i dati così come penso che debbano essere raccolti. Quindi da questo punto di vista assolutamente sì, sono importantissimi. Va bene, okay. Elisabetta, volevo dire che Simona Regina è una lemure del Madagascar, quindi sentitevi, ecco. Perfetto. La mia coda è lunga, esatto, con tanti anelli. Quindi devi stare attento, Federico, perché nei lemuri la dominanza è femminile, lo sai, vero? Sì, no, ma infatti okay, mi sono adattato a... Perfetto. Allora. Grazie Palagi, buon lavoro. Buona serata. Grazie Elisabetta Palagi, buona serata. Grazie a voi. Ci saranno lemuri alla guida sulle nostre strade, adesso ce lo dicono quelli del traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso, Federico, andiamo in Medio Oriente, andiamo in Giordania per capire a che punto siamo con Sesame, il primo super microscopio costruito in Medio Oriente. E lo facciamo con Giorgio Paolucci, che è il direttore scientifico di Sesame e che quindi ci fa da cicerone. Buonasera. Ci dica allora. La costruzione di Sesame è iniziata ormai da anni, nel 2003, a che punto siamo? Quest'anno inizieranno a correre gli elettroni nel grosso anello di 133 metri. Beh, hanno già iniziato a correre, nel senso che hanno già fatto un paio di giri e questo è un passo fondamentale. In breve dica ai nostri ascoltatori, insomma, che cos'è questo marchingegno, questo macchinone. Ne abbiamo un po' uno anche in Italia, a Trieste. Tra l'altro, appunto, Giorgio Paolucci proprio dal sincrotrone Elettra di Trieste circa 3 anni fa si è trasferito in Giordania. Quali gli scopi scientifici di questo sincrotrone in Medio Oriente? Questo tipo di macchine utilizzano tecnologie simili a quelle del CERN, ma hanno scopi completamente diversi, nel senso che noi acceleriamo elettroni allo scopo di produrre raggi X e comunque in generale fotoni, con caratteristiche che non sono ottenibili in nessun altro modo. Raccogliamo questi raggi X, questi fotoni, li mandiamo su dei campioni che sono degli oggetti reali. Facciamo della scienza dei materiali molto avanzata. dove materiale è qualunque cosa compresa fra un atomo isolato e un essere umano. Passando, quindi è un laboratorio multidisciplinare dove si incontrano fisici, chimici, biologi, archeologi, scienziati dei materiali, industrie innovative, insomma, ha applicazioni molto vaste. È un po' grezzamente potremmo dire che, per esempio, una delle sue funzioni principali è quella di riuscire a darci delle immagini estremamente accurate, magari di particolari che sono cruciali per le applicazioni, no? Certo, certo, è possibile analizzare materiali, analizzarne la composizione, analizzare la distribuzione di elementi e molecole con risoluzione di spaziale di qualche nanometro, quindi dà informazioni che in altro modo non si riescono ad avere. Diceva appunto che vi lavorano scienziati con background diverso, anche scienziati di diversa nazionalità, e qui emerge un altro scopo molto importante di questo primo sincrotrone in Medio Oriente. Certo, questi laboratori sono in generale luoghi di incontro di diverse culture scientifiche e anche nazionalità diverse. Alla fine degli anni 90 si è deciso di costruire una macchina di questo tipo in Medio Oriente con lo scopo dichiarato di favorire il dialogo fra ricercatori di nazioni che abitualmente hanno difficoltà a parlarsi, per usare un eufemismo. Quindi i membri di Sesame sono la Giordania, la Turchia, Cipro, l'Egitto, il Bahrain, il Pakistan, l'Iran, l'autorità palestinese e Israele. Quindi da questo semplice elenco si capisce che sì, ci sono insieme nazionalità che in altri contesti hanno difficoltà a parlare tra loro. Strumento scientifico, ma strumento di pace. E poi c'è anche un altro scopo, uno scopo sociale, cioè è un centro di eccellenza, quindi un centro in cui possono lavorare ricercatori e ricercatrici che altrimenti sarebbero praticamente costretti ad andare altrove, ad andare all'estero per fare il loro lavoro. Il problema della fuga dei cervelli che ben conosciamo in Italia e in Europa, qui è un problema molto più grave, nel senso che si parla di un fattore 10, perché appunto mancano completamente infrastrutture di ricerca, quindi l'idea di fare un centro di questo tipo in Medio Oriente che non ne ha altri è l'altro aspetto fondamentale di scopo. Stiamo richiamando un po' di giovani, abbiamo per esempio qui due ricercatori egiziani che peraltro hanno studiato in Italia e contiamo di averne di più in futuro, insomma. E allora Giorgio Paolucci, direttore scientifico di Sesame, la salutiamo dicendole appunto apriti Sesame. Grazie mille, e tanti auguri per questo bel lavoro. Grazie. Vi parlo di un libro, titolo Centauri, scritto da Luigi Zoia. Buonasera Zoia. Buonasera. Psicanalista e saggista, il libro edito da Bollati Boringhieri. Zoia ci ha abituato a delle analisi di cose molto complesse che mettono insieme psicanalisi e comportamenti storici, comportamenti sociali complessi e articolati. Un bel libro di cui avevamo parlato anche qui a Möbius era Paranoia, la follia che c'è nella storia, che fa la storia. Allora Zoia, io brevissima introduzione a partire dal titolo Centauri. Allora, al di là di quelle immagini belle che ci arrivano da certi cartoni animati di Walt Disney dei centauri che sono blu, rosa, sono molto gentili e fanno un sacco di cose buone con tutti i personaggi, in realtà invece nella tradizione mitologica greca il centauro è un personaggio tremendo che ha una sua radice violenta fortissima e che manifesta in modo particolare questa sua violenza contro le donne, che maneggia in tutti i modi e proprio stupra in modo sistematico. E lei ha dato questo titolo al suo saggio, un saggio che affronta il problema dello stupro di gruppo come manifestazione quindi diffusa. Le chiedo subito di darci un paio di dati, un paio di finestre d'osservazione, una su alcuni aspetti genetici degli afroamericani, quindi della popolazione nera, sì, in un paese come il Nord America, che sono emersi di recente? Dalle analisi genetiche degli afroamericani attuali c'è una percentuale di discendenza non da africani ma da europei che va dal 20% al 35%, cioè grosso modo un quinto del sangue che hanno, da un quinto a più di un terzo, a seconda dei vari studi, ma fatti appunto ormai su campioni molto vasti, discenderebbero da uomini bianchi. E qui diciamo uomini anche nel senso che le analisi genetiche permettono anche di sapere non solo questi caratteri, da quale popolazione, a quale ceppo genetico vengono, ma anche se sono, se è la discendenza maschile o femminile, no? Certo. Dato che i cromosomi sono diversi. E nella quasi totalità è una discendenza da europei per parte maschile. Quindi significa una cosa sola, sì, esattamente. Non può che significare una cosa sola. Quando esisteva la schiavitù, il diritto di proprietà molto semplicemente includeva anche questo molto molto spesso, e quindi diciamo col doppio insulto della violenza su un essere umano che emerge e della violenza fra i sessi praticamente legittimata dal fatto che quindi, e questo è andato avanti evidentemente, no? Se in proporzioni così grandi per secoli ed è questo, è questa al centro della sua riflessione, perché lei dice qui non abbiamo un brutto comportamento laterale, qui abbiamo un comportamento che determina una popolazione, e quindi lo stupro diventa un fattore che crea un fatto storico sociale, infatti un'altra riflessione irreversibile, che... irreversibile. Un fenomeno molto più grosso che lei analizza e che racconta nel libro riguarda il Sud America, dove la dominazione spagnola è accompagnata costantemente da una uccisione dei maschi o un loro, come dire, utilizzo, assoggettamento cioè, totale, miniere, sì. È uno stupro di massa praticato, come dire, quotidianamente invece verso le donne. Questo per dire che lei sposta il problema dello stupro appunto come qualcosa che però a questo punto è intrinseco in un comportamento maschile nei vari momenti della storia. Strutturale, se non ci sono condizioni sociali in qualche modo contenitive molto forti, diciamo è interessante, affascinante e preoccupante, e per questo va studiato da un punto di vista psicanalitico, come questa non è l'eccezione, no, del soggetto patologico, ma in certe condizioni, quando il contenitore storico e sociale è molto particolare, diventa la regola, la massa. Sì. Ma fino poi, andando avanti, cioè, quando i giapponesi durante la guerra con la Cina entrano a Nanchino, in una settimana sono stuprate 25.000 donne. Quindi diciamo è proprio una modalità di base operativa, e questa è la cosa inquietante. Tant'è vero che lei fa anche una riflessione di tipo antropologico, psicologico, non saprei come definirla. Lei dice c'è una storia antichissima, la donna ha delle funzioni semplici che importantissime e che però la rendono stabile come comportamento nel tempo, mentre invece il maschio, facendo molte più cose, anche perché costringe la donna a pochi ruoli, è molto più instabile e non riesce. I ruoli sociali, e certo, variano appunto con le convenzioni sociali, con le prescrizioni della religione, per esempio, che le due colonizzazioni nel Nord America, no, arrivano i puritani che sono composti sempre da coppie già sposate, no? In una mano la Bibbia, nell'altra il fucile, quindi massacrano anche loro la popolazione locale, però l'uomo ha già la sua compagna, è già sposato e tutto, quindi il contenitore sociale è molto diverso da quello del Sud America. Del Sud America, sì. È proprio le condizioni culturali, e lì anche poi è molto complesso il cattolicesimo, il protestantesimo di tipo puritano, no? Per cui tra l'altro, diciamo, il rapporto con le donne indigene non viene praticato, ma anche per razzismo, perché c'era qualcosa a cui si è ispirato molto Hitler, per esempio, nella colonizzazione nordamericana, no? Dei confini razziali, mentre il Sud America è fatto da questo meticciato, che è un meticciato di fatto, che non nasce sì da unioni consacrate in chiesa, eccetera, eccetera, e che ha a che fare anche con un altro aspetto complesso della tradizione cattolica, cioè che si accetta di più il peccato, la macchia, diciamo, l'ombra, il colore, anche con tutte queste simbologie, la persona di colore che in questi arcaismi viene considerata quasi portatrice di un peccato originario, no? Sei più scuro perché sei più, anche la tua anima è più scura, cose di questo genere, però intanto comunque ci si unisce anche sessualmente, sarà un peccato, ma poi il peccato lo si assolve con la confessione. Questa è proprio la differenza rispetto al puritanesimo, che cala invece delle lame, delle mannaie più nette, no? Di qui o di qui o di là. E invece nel mondo latino e cattolico facciamo tutti assieme e poi cerchiamo di distinguere cosa è bene e cosa è male. Io mi fermo qui perché il libro contiene un'analisi molto più dettagliata, sarebbe sciocco pensare di risolverla in pochi minuti. Luigi Zoia, Centauri, edito da Bollati Boringhieri. Io la ringrazio, spero che siamo riusciti a dare dei titoli di quanto però sia profonda questa analisi, e quindi andatevelo a leggere. Grazie Zoia e buon lavoro. Grazie a lei davvero. Io non ho altro da dire, tu? Mebius Online su Twitter e Facebook vi aspettiamo, e poi sabato prossimo. Buona settimana a tutti. E a tutte.